un sogno ad occhi aperti. Io guido un'auto ferma ad aspettare il motore. È già pronto per ripartire la mia auto, andrà veloce, mi porterà ad ascoltare il vento, risvegliando l'invidia di chi passa e guarda. Ma il sogno è nell'anima, oppure si muove solo fuori di me. Oppure cresce, muore fuori di me.